giocano con il tempo, l'universo è solo un enorme campo di biliardo, dove le divinità perdono il nostro tempo, mentre il freddo avvolge le paure di chi passa distratto, paura di giorni senza emozioni, paura di giorni senza stupore. E allora in coda per l'ultimo sogno, sperando che qualcuno torni qui da me a raccontarmi ancora di un cielo nero, ma di stelle artificiali implodono tra schegge colorate, mentre spazi di cielo mi soffocano dentro. Di sogni dove grandi insetti neri mangiano la mia anima, l'universo è solo un'enorme fabbrica di sogni dove grandi insetti neri